La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Oggi alla guardiana del faro rispondiamo soltanto alle lettere, perché siamo molto indietro. Io e Gloria Guerrera siamo rimaste impigliate nel fascino di Colette e della sua letteratura. Quindi adesso solo lettere. Dopo 15 anni di matrimonio ho esaurito la mia pazienza. Lui mi dà fastidio quando mangia. Lo scricchiolio del suo spazzolino da denti la mattina mi manda ai matti. È bugiardo, inutile, vigliacco nelle sue scelte. A letto poi tutte le amiche mi dicono: sei giovane, mollalo, rifatti una vita. Sembra facile, dopo che lui me l'ha disfatta. Mente su tutto. Ad esempio, se va a prendere un caffè, mi dice un'altra cosa. Moglie esasperata. Cara moglie, se tu sei esasperata, ma figuriamoci lui, anche io che per natura sono franca, al posto suo ti direi bugie su tutto. Come si fa a dire la verità a una donna così piena di odio e di malanimo? Lui ha letto insufficiente. E tu come sei? Io da questa lettera capisco una cosa, che tu, tuo marito, non lo lascerai mai, perché gli vuoi troppo male. Quest'odio ti nutre, ti fa prosperare e tu vivi per tormentarlo. E se la vittima ti scappasse, saresti morta. Ma dove lo trovi uno così sottomesso, una vittima così perfetta? Sta con lui, che un altro ti caccia via dopo 5 giorni. Sai, ci sono matrimoni che si fondano su basi ancora più sgangherate e miserabili. Voi due, almeno, potete contare su una cosa solida, un odio sicuro. E le azioni di questo odio non possono che crescere. Non mi scrivere più. Il vostro spettacolo è già abbastanza indegno senza che degli spettatori ne aumentino lo squallore. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Questa parla indirettamente di San Valentino. A me la festa di San Valentino, ribadisco, non mi è mai piaciuta. Una festa inventata dal mercato che sterilizza l'amore legandolo al consumo di gadget disgustosi. Una festa dei cuoricini, delle stelline, delle frasi fatte, delle esteriorità che sono proprio il contrario di ogni sentimento. Però la lettera di Fernanda, legata a questa data, ci racconta dell'incontro più importante della sua vita avvenuto proprio il giorno di San Valentino. Però hanno ricostruito dopo, è stato un caso. E lei dice, lì per lì non lo notammo. Lei aveva cominciato a chattare con questo sconosciuto. Poi un giorno lui si presenta, mente come sempre in queste cose, si mente chattando e si mente quando ci si incontra. Lui dichiara 10 anni di meno, le dice che sta per divorziare, e non è vero perché esisteva soltanto nelle sue intenzioni questo divorzio. E lui è piuttosto antipatico, è molto contenuto, molto sprezzante, parla male di tutto. E per un dettaglio, a un certo punto lei capisce, vanno a pranzo insieme e lui mantiene sempre questo atteggiamento scostante, e lei capisce che dietro ci può essere un patrimonio di tenerezza. E così sarà. Quando si rincontrano, stanno un po' a studiarsi per un paio di giorni, poi fanno l'amore e lei dice, per la prima volta capii quanto può essere intenso e profondo l'atto d'amore. L'altro non sta a mercanteggiare o a mentire. Lascia la moglie e si mette insieme con lei. Lei ci scrive oggi e sono passati 10 anni da allora. Lui allora aveva 2 figli di 20 e 22 anni, che quindi adesso ne hanno 30 e 32, che non l'hanno mai perdonato. Questa è Fernanda che scrive. Sono passati 10 anni da allora e ci amiamo forse ancora di più. Ci siamo sposati e siamo felici di essere insieme anche senza far nulla. Ma c'è sempre un ma. Il suo cruccio è quella porta chiusa e parla del rifiuto dei figli, cui puntualmente bussa e dove riceve solo risposte arroganti e fredde. I suoi figli non lo sanno perdonare. Io vorrei aiutarlo, ma non so come fare. Ho anche provato a scrivere loro una lettera che mi pare abbia aperto per un attimo un piccolissimo spiraglio, che subito è svanito. Lui si è ammalato di cancro e insieme l'abbiamo sconfitto. Però io ho paura che questa mancanza lo torturi, scavi nuovi solchi nel suo cuore e me lo porti via. Vorrei che i figli tornassero da lui, che gli togliessero questo inutile fardello dal cuore. Ma davvero non so che altro fare. Dimmi qualcosa. Fernanda. Ma io lo capisco, Fernanda, che per i figli è un dolore quando il padre lascia la madre e va a vivere con un'altra donna. E si sentono traditi anche loro. E allora formano un partito contro colui che in casa verrà nominato come il delinquente, il porco, il fedifrago, eccetera. Ma cosa avrebbero preferito? Quello che fa la maggior parte dei mariti? Tenersi l'amante e la moglie, oppure rinunciare, iniziando un calvario di falsità che fa male a tutti. Però questa reazione, lì per lì. E poi non erano bambini, erano già sui 20 anni, che adesso usiamo chiamarli ragazzi, ma sono uomini fatti. E non hanno per padre uno scostumato, un traditore. Il padre è stato leale, il padre si è innamorato di un'altra, semplicemente. Non è un criminale. E succede, la scelta. E ha avuto il coraggio di andarsene, visto che in casa sarebbe stato solo una falsa presenza, un fantasma. Adesso questi figli hanno più di 30 anni. E nemmeno davanti al cancro, neanche davanti a questa malattia che lo poteva uccidere, sono tornati indietro. E qui c'è il partito preso, la pigrizia intellettuale, la grettezza sentimentale, l'arroccarsi dietro un principio che sostituisce i sentimenti veri. E questo li ha resi dei mostri. E non amano né il padre né la madre, amano soltanto la vendetta. Hanno condannato il padre a una specie di morte civile. E questo per loro è diventato uno status, qualcosa di prezioso, evidentemente un grande appiglio nella mediocrità. E sono capaci persino di esserne orgogliosi, quell'orgoglio bovino di chi si crede nel giusto. Però tu li devi incontrare. Cioè, una lettera non basta. Tu sei la nuova moglie del padre, state insieme da 10 anni. Io al posto tuo ti dico, forse sbagliando, non so, ma non potrei tenermi. Io andrei a parlarci con la massima semplicità, con umiltà ma senza contrizione, perché non hai nulla da essere contrita, e vedere di persona se sono proprio vuoti di affetto, privi di qualsiasi intelletto d'amore, o se c'è un piccolo spiraglio che tu possa aprire. E se invece non c'è niente da fare, io non posso che piangere con lui e con te che hai questo peso grandissimo, simile al suo, perché gli stai accanto sentendo questa voragine che non puoi colmare in nessun modo. E questo è un prezzo ingiusto, enorme, che pagate tutti e due, non per un delitto o per un atto disonesto, ma solo per il fatto che vi volete bene. L'ho sposato perché fra noi col sesso andava proprio bene. Con lui facevo quella cosa che è la mia preferita e che mi legava a lui più di tutto. Ma ora che siamo marito e moglie, lui quella cosa non la vuole fare più. Io metto il muso, lui pure, alla fine ci stiamo allontanando fisicamente e non solo, perché siamo indispettiti l'uno con l'altro. Non riusciamo più ad avere confidenza. Io ho l'amica del cuore e lui l'amico, con i quali ci confidiamo, ma fra noi la sincerità è finita. Mi annoio. E lui pure. Calamity Jane. Sono curiosa di sapere perché mai ti sei scelta questo pseudonimo, Calamity Jane. Perché lei è passata alla leggenda come una donna decisa, che beveva, menava, sparava e sparava soprattutto balle sulle sue azioni eroiche. Però qualcosa in comune ce l'avete. Pare che lei fosse infelicissima in amore. Beh, dati i tempi, una donna che gareggiava coi maschi, che sparava, appunto si vestiva da uomo, non doveva essere molto popolare, come del resto, alla fine, non lo sarebbe neanche oggi. Ma soprattutto vorrei sapere cosa sarà mai quella cosa di cui parli. Cioè, moderatamente curiosa, perché poi il sesso è vario, ma mica tanto. Sono sempre quelle 6 o 7 cose. E il famolo strano, espressione entrata nell'uso dopo il film di Verdone con Claudia Gerini, è in verità piuttosto limitato. È solo la passione che infinitamente lo reinventa. Il tuo non è un piccolo problema, perché è chiaro che tu e lui avete una visione opposta. Tu consideri il matrimonio un luogo della libertà, anche sessualmente. Lui invece come la tomba del sesso. Ovvero, lui vuole che a letto siate più per bene di prima, che è una contraddizione in termini. perché a letto non è che valgano i contratti, ma soltanto l'estro e il desiderio. Non è che possiamo stabilire prima a tavolino se facciamo o no quella cosa. Quelle cose vengono da sé, durante, e se lui mette degli steccati vuol dire che non ti desidera più tanto. E se ci pensi bene, sposare uno solo per quella cosa, ma è un po' fatuo, in quanto qualsiasi altro essere, se fervidamente da te educato, potrebbe diventare un confidente dei gusti e quindi del piacere e quindi di quella cosa. Il guaio è che vi sposate troppo, ragazzi. Dicono che i matrimoni sono in calo. Non abbastanza, credo, viste le ragioni irragionevoli per cui ci si sposa. Cara Barbara, sono stata una bambina contesa tra due mamme, quella biologica, ovvero la fattrice, e quella adottiva, la allevatrice. In questa esperienza ho potuto vedere due diversi tipi di amore, quello possessivo, passionale e di sangue, e un altro mite, presente e paziente. Adesso che sono grande, ho 27 anni, mi domando cosa sia esattamente la maternità e a volte mi rispondo che è un grande gesto di egoismo, nel senso di amor proprio, di un sano egoismo che, condito però dalla responsabilità, può dare luogo a qualcosa di meraviglioso. E l'amore tra uomo e donna? È anche quello un potente egoismo reciprocamente provato? Oppure gli amori sono tanti? Con tanta stima, Sara. Ma Sara, certo, tutto in noi procede dall'egoismo, ovvero dall'attenzione a sé. Ognuno di noi è lo strumento di percezione del mondo. L'egoista perfetta era la mia nonna Elvira. Aveva l'egoismo ideale, cioè le piaceva star bene e quindi faceva in modo che anche gli altri intorno a lei stessero bene. E dispensava cure, felicità. Il suo primo pensiero al mattino erano le burle, tanto per cominciare, ma che era un modo per rendere felici gli altri. E poi la frutta fresca era come rendere felici gli altri e quindi se stessa. Che i figli si facciano per egoismo, lo ripetiamo, credo, in ogni trasmissione della Guardiana del Faro. È un monumento al proprio narcisismo e alla superbia di moltiplicarsi. Però si parte dalla celebrazione di sé, ma intanto si fabbrica l'altro e ci si lega al figlio con un dovere indissolubile che dura tutta la vita. È un'astuzia della natura, ma molto riuscita. L'amore, dici tu, è egoismo. Ma certo, l'amore è egoismo. Ma se è amore, si gioisce dell'altro, delle sue fortune, del suo essere. L'amore, se è amore, è una monade in due, anche se è una contraddizione in termini, in cui tu sei l'altro. Chi ha avuto questa esperienza, che non è da tutti, Molti si accontentano della contraffazione, dell'articolo di mercato, però chi l'ha avuta, per esempio, no, quando ancora l'amore non è dichiarato e solo il ricordo dell'amato, dell'amata, all'improvviso, tac, ti trovi con le lacrime. E sono lacrime di pienezza. Ah, lui, lei, esiste. Rivedere quel gesto, quella goffaggine, magari per timidezza verso di te. L'egoismo, la voglia di sedurre, è la partenza. Ma poi ci sono mirabili costruzioni che si possono innalzare su questo. C'è il respiro. Il vero respiro è abbandonarsi a questo riscatto dalla morte, a questa infinità. Egoismo, piano. Voglio dire, attenzione, ridurre tutto all'egoismo senza prevedere la trasfigurazione che poi frantuma ogni regola, diventa una scusa per non darsi, per non ricevere, per vivere come alberi morti e sul ramo ti si può fermare la fenice o l'aquila reale o l'usignolo più armonioso del creato o un pennuto di bellezza mai vista e tu non te ne accorgi. La Guardiana del Faro. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Hai qualche consiglio per me? Io ho 38 anni, mio marito 40. Ci siamo sposati senza conoscerci troppo, abitavamo in due città lontane. E subito, ma subito, dal primo giorno, abbiamo capito d'avere sbagliato. Figli non sono venuti, al sesso abbiamo rinunciato dopo 2 anni, affinità zero. Però andiamo d'accordo, lavoriamo tutti e due, ce la mettiamo tutta per pagare il mutuo. Le nostre famiglie ci vogliono bene. Certo, la sera quando ceniamo soli in silenzio mi si stringe il cuore. E credo anche a lui. Ma vedo unioni che sono molto peggio della nostra. Almeno non alziamo mai la voce. E alla fine non è un cattivo matrimonio. Piera. Ma se non è un cattivo matrimonio, perché mi scrivi? Per interrompere con un piccolo gesto questo rito funebre? Ma senti, Piera, siete giovani, non siete poveri, avete due stipendi, ma siete matti a vivere così. Perché? È tale la paura di esistere che preferite essere defunti subito? Io non ti voglio consigliare, io ti voglio spaventare, io ti voglio suonare una tromba nell'orecchio in modo che salti fino al soffitto, sperando in un attimo di vivacità e di coscienza. E non lo farò con le mie parole, ma con questa poesia di Robert Graves, perché oggi ho nominato mio assistente questa illustre ombra. La poesia si intitola Chiamatelo un buon matrimonio. Chiamatelo un buon matrimonio, visto che nessuno ha mai indagato sulla sensualità di lei né sulla virilità di lui o sulla loro affinità di vedute, benché pochi siano ancora disposti a sottoscrivere l'assioma secondo il quale le discordie sotto l'osso sacro non debbano necessariamente estraniare il cuore. Chiamatelo un buon matrimonio. Malgrado la mancanza di figli, i motivi che li univano furono più forti di quelli che tendevano a dividerli. Chiamatelo un buon matrimonio. Mai litigarono in pubblico, agirono con circospezione e affrontarono il mondo con orgoglio, sicché gli smacchi del loro letto d'amore non ci riguardarono mai, finché eccoci nella giuria ad esprimere un verdetto su due morti per suicidio. Chi mi scrive è Paolo da Bolsena, che cresce orfano e poi da grande, adesso ha 42 anni, per una serie di ragioni non ha avuto figli. E racconta di questa sua sera al ristorante, nella quale si immedesima nel rapporto tra un padre e un figlio attraverso il comportamento a tavola. Vedevo la testa di quel padre avvicinarsi e allontanarsi dal volto della figlia e da quello del figlio, alternando sguardi ai cucchiai ricolmi che l'uno o l'altra condividevano con lui, ridendo poi con loro per un pezzo di purè o di pollo finito chissà come dalla bocca dell'uno al naso dell'altro. Una danza amorosa col cibo nel mezzo prendeva forma davanti ai miei occhi. Ovvio che non riuscivo più a mangiare nulla. Il mondo intero si esibiva a due tavoli più in là. L'appetito che mi aveva portato in quel locale mi appariva ora così solitario e incidentale da sembrarmi irreale. Avrei voluto che al posto del mio piatto vi fosse una di quelle scodelle. Avrei voluto almeno che un tempo vi fosse stata. Avrei voluto mangiare metà di un cucchiaio di purè e darne l'altra metà a mio padre. Non avrei mai potuto dimenticare quella famiglia. La voce di quell'uomo gentile che accordava i colori accesi di quella dei figli e loro che da lui prendevano cibo, regalandosi in realtà l'un l'altro molto di più. Ero travolto. Aprii di nuovo la mia rivista. Mi avrebbe impedito di guardarli ancora. Mi avrebbe riportato alle brutture del mio unico quotidiano possibile. Soprattutto avrei smesso di compiangere l'orfano che ero stato e chissà, forse dopo, avrei anche finito il mio pranzo. Mio soltanto. Beh, tu Paolo sei due volte orfano dei genitori e dei figli mai avuti. E grazie per questa scena che ci hai raccontato, questa epifania per te, quella sacralità della scodella, simbolo degli affetti. Io ho ricevuto migliaia di lettere, ma nessuna che somigliasse a questa, che purtroppo ho dovuto un po' tagliare, capace di trasformare in una grande tenerezza ogni oggetto, ogni gesto. Non importa poi se quell'eden familiare che hai colto magari fosse posticcio, perché sai Paolo, c'è anche un sacco di gente che quando va fuori in osteria ostenta il quadretto familiare, poi a casa sono botte da orbi. Però è importante quello che hai sentito tu e come lo racconti, e quella scodella irraggiungibile che sogni come altri sognano la luna. Sei un uomo ricco, per la profondità della tua sofferenza, per la vastità della tua nostalgia e per la capacità di esprimere tutto questo. Mi sono innamorata di un altro e ho lasciato il mio insopportabile marito. E ora vivo con questo essere meraviglioso. Però continuo ad andare a letto col mio ex. Non riesco a fare a meno di lui sessualmente. Il mio nuovo amore è un vero compagno di vita. Parliamo di tutto, andiamo d'accordo su ogni cosa. Col mio fu marito, invece, non ci siamo mai capiti. Le nostre liti erano leggendarie. Correvano le botte e correvano anche i vicini a dividerci. Una volta abbiamo distrutto il salotto. Ma a letto sì che ci capivamo. E ancora adesso guardarci e correre a fare sesso è tutt'uno. Non tradisco il mio uomo, nel senso che gli racconto tutto. E lui pacatamente mi spiega il perché Certo un po' ci soffre, ma non dà in escandescenze. Cura molto la parte psicologica della faccenda e la comprensione fra noi, anche se trascura in queste lunghe sedute un fatto importante, cioè che fra noi l'intesa fisica è quasi a zero. Una ex moglie. Che commedia, uno schema geniale. Dunque, tu vai a letto col tuo ex marito, poi lo racconti al tuo amante e lui ti parla, ti fa dei grandi discorsi, ti analizza. Tu lo provochi in tutti i modi, no? Sperando di svegliarlo un po', sperando finalmente in una bella reazione incontrollata che lo metterebbe alla pari con questa sarabanda. E lui? Niente. Lui parla. Lui ha una fede incrollabile nella parola. Lui è un intellettuale. L'azione la lascia ad altri. La lascia a quel tuo marito, infrequentabile nella vita ma indispensabile a letto. Da questa storia sprizza non so quale diabolica allegria. Ognuno fa la sua parte. È una bigamia, mi sembra, delle più felici. I due maschi sono complementari. L'intellettuale esagera nella sua prova di forza passiva, che a una persona sana come te sembra debolezza. Se perdesse le staffe per una volta, finalmente forse ci sarebbe un po' di sesso tra di voi e ci sarebbe ancora più sapore negli incontri col marito, che non finirebbero. E perché dovrebbero finire? Alimentano devotamente la vostra storia. Parlare dell'attrazione indomabile fra te e l'ex marito riempie la vostra relazione, mi sembra avventato chiamarla amore, visto che altro non c'è. E mentre state lì, un po' mortuari nel vostro lettuccio a parlare, vi fornisce un surrogato di rapporto erotico. Finalmente, un po' di sesso. Io non vorrei fare una commedia, e nella commedia la parte del tuo uomo attuale io la farei comica, però con una sua dignità. La dignità del grande maniaco, del Don Chisciotte del dialogo, il folle campione della civiltà, che crede appunto nei rapporti, come si dice, civili, e che intanto pratica la barbarie verso se stesso, reprimendo tutto. Io penso che due uomini ti spettino, e la quota equa per la tua energia. Non è mica colpa tua se bisogna sommarli. Perché non lo racconti troppo in giro? Che Dio vi conservi questo caro marito così disponibile e bestiale. È lui il punto di forza della vostra unione. Se vi molla, vi ammazzerete di sbadigli. Prima media, la vedo. La crepa sulla mia maschera. Ho sempre seguito le regole di Dio, dei genitori, della scuola, eccetera. Non per paura della punizione, ma per non perdere l'opportunità di infrangerle. E quel giorno lei si candidò come unica opportunità. Ma la maschera che mi ero cucito addosso era troppo ben attaccata. E persi la prima media senza scambiarci nemmeno una parola da soli. Durante l'estate avevo rinnegato tutti i miei freni che mi impedivano di farmi avanti con una come lei. Non credente, menefreghista e sfacciata, una forza della natura. Abbandonato catechismo e chiesa, i primi scontri con i genitori e così via. Ero libero, vedevo il mondo per la prima volta, ero pronto per farmi avanti. L'anno seguente, il primo giorno, lei non c'è. Ha cambiato scuola, mi dicono. Io disperato sotto la maschera che mi impediva di urlare la mia rabbia. Le medie passano in una solitudine completa. Le superiori sono una nuova vita. Lavoro, trovo una ragazza, mi fidanzo, due figli, felice. Ma ecco che la magnifica invenzione di Zuckerberg, che gli venga un colpo, mi fa capitare su un profilo che manda tutte le mie certezze in pezzi, sottosopra nel caos più nero. Quei due occhi che mi fissano dallo schermo mi vedono oltre la maschera. I dubbi nascono come funghi. E se avessi sbagliato tutto? Si può sbagliare seguendo l'amore. Devo seguirlo incurante dell'infelicità che potrei causare? Ma senti, non mi chiedi mica poco. Tu mi chiedi di divinare se faresti bene a buttare all'aria la famiglia per gli occhioni di una ragazza su Facebook. E se ti dico di sì, che fai? Vai avanti perché te l'ho detto io? E se ti dico di no? Rinunci? No, io ti posso dire solo cosa ho pensato leggendo che questo tuo bel carattere così ardente e così ardentemente represso dovrà pur venire fuori una volta o l'altra, altrimenti muori. E ci sarà un costo anche alto. Ti sei talmente trattenuto, hai talmente fatto il contrario di quello che avresti voluto, che poi, quando seguirai il tuo impulso, per forza ci sarà un'esplosione. Non puoi scegliere, non puoi pretendere che sia per una cosa ragionevole, perché di ragionevolezza ce n'è stata fin troppa. Se ti strappi la maschera, sarà ben difficile che non ci siano vittime a partire da te. Ci sarà un prezzo e ci saranno difficoltà e dolori da affrontare a faccia nuda, senza lo scudo della maschera. E poi dopo, se sarai riuscito a farlo, ti accorgerai che non basta una volta sola, che se decidi di vivere a viso aperto, dovrai continuare a lottare contro la finzione, contro la paura. Sai, ogni momento, ogni giorno. Perché la tentazione che non ci lascia mai a nessuno è quella di perderci, quella di fare il contrario di ciò che ci farebbe stare bene. Cara Barbara, con lui va a meraviglia. Insieme ci facciamo mille risate e il sesso è appagante. A letto, in negozio, in macchina dopo la discoteca. Un neo però c'è. Ultimamente stavamo vedendo un film e lui se n'è uscito con questa frase per me infelice. Io quella lì, la protagonista, me la scoperei. Oppure con gli amici se si parla di una ragazza, che gran figa quella. A me fa molto male sentirlo parlare così. Non è mai stato un tipo da apprezzamenti da camionista, anzi frequenta tutta la gente bene di Bergamo. Che sia il primo campanello d'allarme che qualcosa non va. Ma cosa? Poi mi ha detto che se ci vediamo una volta alla settimana, lui dopo è più contento quando mi rivedrà. Io ho chiesto se c'è qualcosa di nuovo nell'aria. Lui mi ha assicurato di no, che mi vuole bene. Il mio cuore però non è tranquillo. Lulu. Beh, lo credo che non è tranquillo, ma scusa Lulu, come te lo deve dire lui che è un po' stufo? Nota bene, non stufo del tutto, peggio, solo un po', proprio quel poco così irritante, la somma offesa all'amore, quel poco che manda su tutte le furie chi ama. No, perché se no ti dice, guarda, io non ti voglio più vedere. In fondo è un sollievo, è quasi una benedizione, un bel dolore netto, un rifiuto che ti stende. Così dopo puoi cominciare a rialzarti. Ma un po' è mortale, questa condanna graduale. Prima lui inneggia le donne in tua presenza, poi mette il limite agli appuntamenti. Ti dice, a me basta vederti una volta alla settimana. Ma io al posto tuo gli avrei già detto una volta alla settimana, mai troppo. A me basta una volta all'anno, anzi sai che ti dico, a me mi basta mai. E avrei sbagliato, perché l'orgoglio è uno stupido consigliere. Forse lui vuole soltanto respirare, però chi ama vuole essere soffocato nelle tue spire. La guardiana del faro. Voglio rispondere alla lettera di un ragazzo. Sono molto sensibile all'idea che qualcuno abbia una vocazione e si figuri di avere degli ostacoli insormontabili, quando magari non è così. Ho 17 anni, vivo in Puglia. Ho un desiderio, fare il truccatore. Quando guardo una faccia, mi metto a fantasticare su come potrei trasformarla. Dipingo a mente sulle sconosciute. Mio padre aveva un laboratorio di ceramiche. È decorando i suoi oggetti che ho scoperto la mia vocazione. Lui ha dovuto chiudere l'attività. Adesso fa l'operaio. È contrarissimo. Dice, devi fare un lavoro concreto. Siamo 4 figli. Non c'è un soldo e di frequentare una scuola per truccatori me lo sogno. Trucco le mie amiche, carpisco qualcosa su internet, ma so che mi mancano le basi. Ti sembrerà un piccolo sogno. C'è chi sogna di girare il mondo. Per me ogni faccia è un mondo. Puoi darmi qualche consiglio? Sono pronto a qualsiasi sacrificio pur di imparare. Aitano. Ma senti Aitano, qualsiasi sacrificio. Mi piace l'enfasi, ma non occorre l'eroismo. Non è che devi scalare l'Himalaya o attraversare il mare a piedi. Basta darsi da fare. Fra un anno sei maggiorenne. Capisco anche la delusione di tuo padre che, avendo dovuto smettere la sua attività artistica, non vuole che tu abbia la stessa delusione. Però, dico appunto, fra un po' sei maggiorenne. Ti scegli una scuola per truccatori, poi ti trovi un lavoro provvisorio e ti mantieni gli studi. Io non sono d'accordo con tuo padre, perché questo è un mestiere concreto. È anzi uno degli ultimi artigianati che ancora fioriscono in Italia. E finché ci sarà lo spettacolo, sarà vivo. Però, come per ogni impresa, ci vuole iniziativa. È appena uscito un libro che si chiama Manuale di Make-up Professionale, scritto da un giovane truccatore, Rossano De Cesaris. È un bel volume poderoso e a Radio 24 ne abbiamo 2 copie. Se ci scrivi un indirizzo postale te lo mandiamo. L'esposizione è chiarissima, disegni, foto, dall'attrezzatura alle posizioni, alle luci ideali, la teoria dei colori, poi voce per voce, fondotinta, correttore, trucco degli occhi, le tipologie di occhio, no? Per esempio occhi cadenti, occhi rotondi, occhi piccoli, e poi il trucco dietro gli occhiali, il trucco della bocca. Io non sapendo disegnare sono negata per il trucco, però Qua credo di aver capito finalmente come si fa a scorciare un po' il naso, oppure a incavare una guancia paffuta, o al contrario a riempirne una incavata. Non so se lo saprei rifare, però ho capito il principio pittorico, già che ogni truccatore è un pittore. E ho chiesto all'autore, Rossano De Cesaris, di darmi una mano a risponderti. E lo abbiamo qui al telefono al Faro. Pronto Rossano, ci sei? Salve Barbara, buongiorno. Buongiorno. Senti, hai sentito la lettera di Aitano, no? Sì, sì, certo. Mi sono anche leggermente rivisto un po' in quello che comunque vivevo anch'io comunque da ragazzino, quando volevo approcciarmi a questo mestiere. Comunque avevo tanti punti interrogativi intorno. Ci racconti la tua esperienza? Sì, dunque io in realtà ho seguito un percorso di studi che nulla aveva a che vedere con questa professione, però ho sempre avuto questa predisposizione, questo interesse verso l'estetica, verso il dipingere, verso l'arte in generale. Poi mi sono iscritto all'università e contemporaneamente però comunque questa passione veniva fuori, veniva lentamente fuori, fino a quando in realtà ho fatto un incontro, ho conosciuto una ragazza, era una truccatrice affermata che mi ha proposto di collaborare con lei, sicché praticamente io accettai. A quel punto avevo poco più di 20 anni e mi si aprì un mondo, no? E inizialmente ovviamente ho dovuto fare della gavetta, nel senso che comunque ho lavorato molte volte gratuitamente, pur di imparare, ma non mi costava nulla, perché la passione non ti fa percepire la fatica. Piano piano, nel giro di qualche anno, è diventata una professione a tutti gli effetti. E poi comunque l'idea di mettere nero su bianco, no? Di scrivere anche dei libri che potessero aiutare la gente. Beh, ecco, a cosa serve a un principiante il tuo libro? Perché si intitola Manuale di Make-up Professionale. Per questo un principiante come Aitano. Dunque, questo è il mio secondo libro. Il primo, che è di 3 anni fa, Il trucco in 448, aveva un altro approccio, un altro intento. Era un manuale di autotrucco. Serviva alle donne per imparare a truccarsi, quei piccoli segretucci da fare tutti i giorni davanti allo specchio per truccarsi da sole. Per esempio, dimmene questo uno. Invece, no, me ne dici uno, scusa. Ma tipo, per esempio, come fare per realizzarsi la riga dell'eyeliner, no? Magari. E come si fa? E come si fa? L'ottimale sarebbe appoggiare i propri gomiti su di un tavolo e di truccarsi davanti ad uno specchio con la testina reclinabile, no? In modo che le mani sono ferme perché i gomiti sono ben appoggiati sul tavolo. In quella maniera la riga di eyeliner può essere tracciata meglio, no? Poi abbassare comunque il mento quando si traccia la riga dall'angolo interno verso la metà, e alzare il mento invece verso l'alto quando si fa l'ultima parte. E senti Rossano, per esempio una cosa che a me capita sempre, quando sei già finalmente ben truccato, ti consideri decente e presentabile, d'un tratto, pam, una sbaffata di mascara sulla faccia, uno sfregio praticamente, come si fa in quei casi? In quei casi bisogna aspettare qualche minuto, soffrire in silenzio, come io dico sempre, perché basta null'altro che far asciugare il mascara, che in realtà il mascara è una pasta, no? Che nel momento in cui si asciuga, basta andare con un cotton fioco di punta e si sfalda dalla pelle e non crea danni. Cioè, ecco, tutti questi piccoli segreti li avevo redatti. In Il trucco in 448. Questo secondo libro, invece, questo manuale vero e proprio, questo è indirizzato ad un altro pubblico, è indirizzato a tutti coloro i quali vorrebbero intraprendere questa professione, tant'è vero che comunque proprio gli argomenti trattati sono più di pertinenza professionale. Parlo del trucco moda, sfilata, del trucco fotografico, del trucco televisivo, per cui comunque il trucco va modulato in base a questi diversi contesti. Poi ho parlato della storia del trucco, proprio passando bene in rassegna tutte le abitudini, come ci si truccava. Senti, ecco, scusa diciamo, Rossano, qual è il secolo in cui più ci siamo impiastricciate la faccia noi donne? Beh, io penso che ai tempi dell'antica Roma, che c'era appunto questa pasta densa biancastra mischiata poi a dei pigmenti rossi ottenuti dalla schiuma di vino per dare un po' comunque il colorito rosato, che veniva applicata su tutto il viso tipo una maschera, e poi questa polvere di ematite sulle gote, poi gli ombretti di tutti i colori, no? Giallo, ottenuto dal zafferano, eccetera, eccetera, questa bocca rossa, no? Stava molto di moda il rosso. D'altronde, è comunque voi siete pittori del corpo. Io prima di truccarmi e dopo è sempre è un'altra faccia, è una specie di idealizzazione della fisionomia. Senti Rossano, salutalo tu Aitano. Aitano, vai, insegui il tuo sogno, andrà sicuramente bene, se c'è passione ti riuscirà sicuramente. Mio marito non è mai stato molto affettuoso con me, ma finché c'erano 4 figli in casa davo meno importanza alla cosa, impegnata com'ero a farli crescere e intanto lavorare fuori senza mai un aiuto in casa. Ora i figli sono grandi e noi siamo vecchi. Pensionati tutti e due, lui si comporta come un pascià È abituato ad essere servito e mai un grazie, un sorriso, uno sguardo di simpatia. Mi accontenterei di così poco. Si dice sempre malato. Con questa scusa ha mai portato fuori la spazzatura, mai aiutata a fare la spesa, che alla mia età comincia a pesarmi. Se mi azzardo a lagnarmi, mi fa delle scenate da levarmi la pelle, dicendo che sono un egoista e che non ho alcun riguardo per i suoi malanni, che sposarmi è stato il suo più grande sbaglio. Il figlio maggiore, con cui mi sono sfogata, mi dice: «Abbi pazienza, papà è vecchio», ma sono vecchia anch'io. La sera, quando dopo aver mangiato senza una parola si mette davanti alla TV, mi sembra di essere all'ergastolo. La mia vita deve finire così, con qualcuno che non mi vuole bene. Ho sempre fatto il mio dovere, ma questo è sfruttamento e prepotenza. C'è qualcosa che io possa fare per migliorare la mia situazione? Liliana. Che fare? Beh, dipende dalle persone. Io quest'ora sarei già scappata mille miglia, però non sono un esempio per nessuno e avrai le tue ragioni per rimanere con lui. L'unica cosa che ti posso consigliare è resistenza passiva. Quando ti dà un ordine, tu fai finta di non sentire. E lasci andare la casa per qualche giorno e dici che non sei in grado di farlo. Battilo sul suo terreno, la malattia. Se insiste, mettiti a letto. Datti malata. È difficile, lo so, detronizzare un despota davvero egoista, sfruttatore e viziato dopo 45 anni di regno. Ma se non esplode la rivolta, ti ucciderà. E allora siamo al punto in cui tu hai lasciato andare la casa. E dopo qualche giorno di incuria, lui non ne potrà più. Il ménage andrà a rotoli. E allora tratta per l'assunzione di una donna ore, perché alla base c'è anche un'avarizia terribile. È ancora tremenda la situazione delle casalinghe, specie quelle della tua età. Il marito porta i soldi fisicamente e sembra che sia lui a guadagnarli. Ma una vita intera dedicata alla casa non viene calcolata per quel patrimonio che è, anche in senso economico. Lui sarebbe ancora in tempo, volendo, a non farsi odiare da te, a correggersi. Attualmente fa schifo. Io lo scrivo sperando che tante volte magari lui ci ascolti. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.